Giornata notevole quella di ieri, le spiagge affollate oltre ogni precauzione anticontagio, così come le strade della vita notturna delle città nel fine settimana. È un governo che porta a conclusione gli stati generali col mondo della cultura e con un Giuseppe Conte che ipotizza un taglio dell'IVA, suscitando qualche perplessità negli alleati del PD che vorrebbero spingere per una riduzione del costo del lavoro. PD che per non essere da meno dei 5 Stelle scatena un dibattito sulla necessità di un congresso, il tutto innescato dalle dichiarazioni del sindaco di Bergamo Gori. In un'Italia col fiato sospeso per la sorte di Alex Zanardi, atleta paralimpico e uomo straordinario, che si è schiantato venerdì contro un camion, condizioni che migliorano ma danni neurologici ancora da valutare. Un'Italia che ritrova il campionato con le due nerazzurre in campo, l'Inter che riparte da Lukaku e Lautaro e sconfigge con un 2-1 la Samp, l'Atalanta che con dedica alla Bergamo colpita dal virus infligge un 4-1 al Sassuolo. Questo 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. So love me. Eccoci qua, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Lunedì 22 giugno, sono le 6:33 minuti, inizia un'altra settimana di 24 mattino. La task force di questa mattina è composta da Carmelo Lauricella in regia, c'è Jacopo De Franchi in assistenza, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, il resto della redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Ma come sempre la vera task force, o meglio no, anche questa è la task force operativa, però questa trasmissione non può fare a meno di voi come task force. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, oppure messaggi scritti se preferite, Come volete. Ci trovate anche su Facebook. Aveste mai questo istinto insopprimibile di vederci anche? Lo potete fare sulla pagina Facebook di 24 mattino. E scriverci a 24mattino@radio24.it. Ragazzi, i modi per contattarci non mancano. Allora, da cosa vogliamo iniziare? Iniziamo da questo Conte sull'ipotesi di tagliare l'IVA. Prima l'ha detta, poi ha detto, beh, insomma, però occhio che costa tanto. L'ha fatto la Germania. Quella misura di intervenire sull'IVA è una misura allo studio, ma al momento non abbiamo preso ancora una decisione. Questa settimana sicuramente sarà già decisiva per una prospettiva del genere. Un punto di IVA costa 4 miliardi, un taglio di punto di IVA costa 4 miliardi, questo per darvi la misura, del provvedimento. E poi, in un tentativo di spaccare l'opposizione alla fin fine, possiamo metterla così, un po' brutalmente, dice: vorrei vedere separatamente ogni singolo leader. Opposizione che dice però no, guarda, o ci ricevi tutti insieme o niente. L'idea qual è? Chiaramente di trovare la sponda su alcuni fronti di Forza Italia. Sentiamo Conte. Tornerò a proporre un'ulteriore occasione, a offrire un'ulteriore occasione di confronto. Proprio per evitare che si possa avere la sensazione di passerelle, credo sia più opportuno incontrarsi con ciascuna forza, in modo che piuttosto che avere, come dire, un confronto che diventa anche un po', rischia di essere un po' confuso, potremo avere maggiore tranquillità per confrontarci seriamente con ciascuna forza, con uno spazio dedicato. Questo lo offrirò senz'altro. Spero che questa volta accoglieranno l'invito. Confido di farlo anche presto, questa stessa settimana. Appunto, opposizione che risponde picche. Del resto i segnali che sono arrivati su, non dico un sostegno, non dico un appoggio esterno, e però qualche segnale di apertura sul fronte europeo dall'opposizione arriva, se le parole di Berlusconi ieri al TG5, se non vado errato, sono queste sul MES. Se fossimo costretti a fare a meno dell'aiuto dell'Europa, e questo per colpa delle incertezze e della scarsa capacità di incidere di un governo come l'attuale. Idee stravaganti poi, come quella di rinunciare al MES, come vorrebbero i grillini, quindi di non prendere i primi danari concretamente disponibili e a costo zero, certo non dà all'Europa l'idea che le nostre esigenze siano davvero pressanti. Però Berlusconi lo sa che non è che sono solo i grillini che non vogliono il MES, sono anche la Lega e Fratelli d'Italia, sono i suoi alleati. Però, vabbè, lasciamogliela correre. Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net, come stai Roberto? Buongiorno. Buongiorno. Buon lunedì. Allora, prova un po' a rompere gli schemi, Conte, parlando di un taglio dell'IVA non facile, e mi sembra che già si trovi qualche opposizione o quantomeno qualche perplessità tra gli alleati, Roberto, no? Comunque non mi sembra una cattiva idea, anzi secondo me è una buona idea, non a caso, come anche il presidente Conte ha ricordato ieri, la Germania lo ha già fatto. Ecco, e qui c'è tutta però la questione. La Germania lo ha già fatto, anche se per un tempo provvisorio. Io credo che si tratti di una buona idea, vorrei soltanto vedere che passiamo all'azione. Anche perché vorrei segnalare che se la Germania lo ha già fatto, cioè la più importante, forte e potente economia dell'Unione Europea, questo crea per i settori interessati al sistema tedesco un vantaggio competitivo anche nei confronti dei propri alleati europei, che sono alleati ma al tempo stesso competitori sui mercati. Quindi la mia modesta opinione è che se il presidente Conte e il governo hanno in animo di procedere in questa direzione, io spero lo facciano, che si decidano nei prossimi giorni. Tocca fare in fretta, Roberto, tocca fare in fretta. Abbiamo bisogno di dibattiti, abbiamo bisogno di decisioni. Quindi il capo del governo ha parlato di questa ipotesi, ne siamo felici, si proceda. Roberto, ascolta, a proposito di tensioni interne alla maggioranza, la settimana scorsa scherzavo e dicevo, dopo Di Battista che evoca il congresso, il Movimento 5 Stelle, le divisioni, le discussioni eterne, ho detto, cavoli, questi sembrano il PD, e non si fa in tempo a dirlo che due giorni dopo il sindaco di Bergamo Gori lancia e dice, facciamo il congresso, e riparte il partito che si spacca, ci si divide, si litiga sui social, com'è? Allora, è un po' così per un verso. Dall'altra parte però, diciamo, senza nessuna forma di dibattito, c'è il partito unico in cui uno decide e tutti gli altri eseguono. Oh, e vale per entrambi, vale sia per i 5 Stelle certo, naturalmente, che per il PD. Certo. Sì. Io tutto sommato metterei il dibattito con tutti i suoi difetti, con tutte le sue, a volte inutili polemiche, tutto quello che ci pare, però diciamo, tra un po' di chiacchiericcio all'italiana e l'omologazione alla coreana, inteso come nord, della Corea del Nord, io mi scelgo l'Italia tutta la vita. Allora, sì, su questo mi sembra non ci sia il minuto, sicuramente meglio della Corea del Nord. Allora, il fine settimana ha portato un'ondata di protagonismo, come sapete, come i nostri ascoltatori sanno, dei sindaci anche dalle parti di Milano, con il sindaco di Milano Beppe Sala che ha lanciato questo messaggio sul tema dello smart working, dicendo bisogna uscire dalle caverne. Questo è, ha detto proprio questa frase, dicendo, insomma, è ora di tornare negli uffici. Poi ha precisato ulteriormente, sentiamolo: noi stiamo perdendo tanto lavoro e tanta occupazione. È ovvio che se la gente sta in casa qualche ripercussione c'è. Io non è che me la prendo, ci mancherebbe altro. Con, stato io il primo a dire in Comune di Milano faremo smart working. Però dico anche, attenzione, lo smart working è una leva di flessibilità, non è una modalità normale. La ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone difende il lavoro agile. Oh, occhio che qua il tema non riguarda ovviamente solo Milano. Vi faccio un esempio: la provincia autonoma di Trento ha chiesto ai lavoratori di rientrare in turnazione dal lunedì al sabato. C'è un tema che si è aperto, perché questo smart working, che non è smart working, dobbiamo dircelo, questo è home working, è lavoro da casa. In questi mesi si è lavorato forzatamente da casa e non è stata una scelta singola, per cui nella giornata nella quale ho un problema di gestione dei figli mi organizzo e lavoro da casa o lavoro da dove mi pare mentre li aspetto fuori dalla scuola. È stato home working forzato, non è stato smart working. Però insomma, il tema c'è, è aperto, ne parla anche la ministra Fabiana Dadone. Comprendo i timori di alcuni amministratori che in queste settimane si sono trovati a gestire il lavoro agile anche per città molto grandi, però non dobbiamo averne paura, è un momento di grande cambiamento, non dobbiamo vederla come una polarizzazione collegata necessariamente all'emergenza, è una nuova modalità di lavoro che deve raggiungere un obiettivo, far avere ai cittadini dei servizi che siano funzionali. Vorrei portare il lavoro agile a regime, chiaramente non con le percentuali cui siamo stati abituati durante questa esigenza pandemica, ma in percentuali più piccole. Devo dirti, caro Roberto, che quello che mi piace nel sentire queste due voci, quella di Beppe Sala e quella di Fabiana Dadone, è il fatto che ci sia un dibattito improntato al buon senso, alla riflessione su cosa effettivamente fare nei prossimi mesi, su come gestire queste nuove modalità di lavoro. Che dici? Ma io dico che il sindaco Sala mette in, diciamo, sul piatto il tema centrale dell'autunno. Tu giustamente ricordavi che quello che abbiamo vissuto in questi mesi non è smart working, perché quello che abbiamo vissuto in questi mesi a causa di una emergenza sanitaria di dimensioni planetarie è stato semplicemente tutti a casa. Tant'è vero che fino a non molte settimane fa, io vorrei ricordarlo, sembra passato un secolo Simone, ma sono passate poche settimane, fino a poche settimane fa per uscire di casa serviva una giustificazione scritta. L'autocertificazione, hai ragione, sembra un secolo fa. Ti ricordi quando si usciva con l'autocertificazione? Oh, e ti veniva chiesta dalle forze dell'ordine e prevedeva una sanzione in caso di motivazione non, diciamo così, sufficientemente solida per essere uscito di casa. Allora, il tema che solleva Sala è il tema dell'autunno, di settembre, e cioè del fatto che quando a un certo punto finirà l'ombrello della cassa integrazione, e meno male che siamo stati nelle condizioni di utilizzarlo in modo così esteso, quanti saranno quelli che le aziende richiameranno al posto di lavoro precedente? Allora, il tema del lavoro è il tema dei prossimi mesi, in un paese come l'Italia che, tra l'altro, vorrei ricordarlo, già dispone purtroppo di uno dei più alti livelli di disoccupazione dell'Unione Europea, non ce lo dimentichiamo mai, perché non partiamo da condizioni brillantissime, e aggiungo uno dei livelli più alti di disoccupazione con un divario nord-sud gravissimo e storicamente piaga nazionale. Sì. Allora, noi dobbiamo guardare la realtà, i provvedimenti del governo, in generale lo sforzo delle aziende, anche le tante novità, che tutto sommato io non sono un tifoso degli stati generali, però molte aziende, molte associazioni d'impresa e anche dei lavoratori sono andati lì con delle idee. Benissimo, queste idee adesso devono diventare realtà, perché il mondo del lavoro sarà la questione centrale dell'Italia dal primo è il grande, guarda è il grande tema, e su quest'asse, se posso dirti, partirà anche la discussione su se tagliare l'IVA o se tagliare il costo del lavoro, perché quello sarà un altro dibattito centrale, su quello possiamo ragionare. Tu dici una buona idea, può darsi invece che come sono sempre state anche le indicazioni europee, ti dicono meglio tassare un po' di più, mettere un po' più di IVA e tagliare invece il costo del lavoro, cioè mettere più soldi nelle tasche delle persone e invece no, e invece tassare un po' di più da quel lato. Vedo che un po' anch'io, sì. Ma l'IVA in questo caso, come ha fatto la Germania, potrebbe essere un provvedimento temporaneo ed eccezionale legato all'incredibile anno che viviamo. Simone, noi stiamo parlando, prendo l'intervento del governatore della Banca d'Italia, di uno scenario in cui il PIL italiano potrebbe scendere nell'anno in corso tra il 10 e il 13%. Non è mai successo nella storia delle statistiche economiche. Quindi noi non siamo di fronte a una situazione normale o un po' problematica, siamo di fronte potenzialmente a un cataclisma. Sì. Se non comprendiamo questo, non cogliamo nemmeno la necessità di misure assolutamente eccezionali. Siamo perfettamente d'accordo. C'è una pausa per il traffico. Qualche ascoltatore già ci scrive: ma quale smart working, inefficienze, strutture inadeguate, strumenti inesistenti? È stata la realtà di molti, caro Paolo, e altri dicono: ma quale? E riprendono le parole di Pietro Ichino, l'abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, che sono state, per i dipendenti della pubblica amministrazione, dicono sono state ferie pagate questo smart working. In realtà Ichino non ha detto proprio così, è stata un po' più morbida la posizione di Ichino, però insomma molto si ragiona anche di questo. Traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Mattino. Ma alla scuola nessuno ci pensa come al solito, chiede un'ascoltatrice o un ascoltatore? No, nessuno ci pensa come al solito, oppure ci pensano molto poco. E invece è buona la nota dell'ascoltatore che dice lo smart working, su questo discorso dello smart working gioca anche un po' di terrore dei proprietari di immobili, di uffici, e aggiungo io forse anche della stessa Milano, che ha basato un pezzo del suo sviluppo immobiliare importante esattamente sugli uffici. Pensate ai nuovi quartieri nella ex fiera, quelli dei grattacieli per intenderci, che in gran parte su questo si basano. È un punto sul quale tornare, sul quale riflettere. Intanto saluto Andrea Giuricin, amministratore delegato di Tra Consulting, docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Giuricin, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno. Allora, veniamo da un fine settimana intenso, è intenso, soprattutto sulla rete stradale e dei treni, ma è su Alitalia, nostra grande passione, che vogliamo portarla. Sono giorni nei quali si devono ancora decidere i vertici di questa nuova compagnia, la NewCo, che sarà dotata di 3 miliardi nostri, l'ennesimo prestito ponte. E però c'è una questione che ha a che fare anche con il servizio di Alitalia, Giuricin, perché stanno montando un po' di proteste. Abbiamo visto nel fine settimana scorso, venerdì, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, che dice ci hanno cancellato 4 voli al giorno che erano sempre pieni. Ma cosa succede? Il servizio di Alitalia, Giuricin, come sta andando? Beh, in questo momento chiaramente Alitalia, come tante altre compagnie, chiaramente si trova in difficoltà dovuto prima di tutto a questa crisi Covid, ma anche al fatto che Alitalia comunque sta finendo soldi, cioè Sono stati dati 400 milioni di euro a dicembre scorso da parte del contribuente, l'ultimo prestito ponte, chiaramente di fatto sono già stati consumati. In questo momento l'Italia sta aspettando i nuovi soldi da parte del governo, quindi i 350 milioni di euro di rimborso fra virgolette Covid più i 3 miliardi di euro per il rilancio. Però quello che sembra in questo momento è che comunque ci sia un po' di attesa da parte del governo, come sappiamo, per la rinascita, per questo annuncio, e quindi nel frattempo la situazione rimane comunque estremamente complicata, così come anche per le altre compagnie. Chiaramente per l'Italia è più complicata per le altre, perché anche quando andava bene perdeva soldi, ora ci dobbiamo immaginare in questo momento che la situazione è più complicata ancora rispetto alle altre, quindi all'Italia è in fortissima difficoltà. È in fortissima difficoltà quindi anche dal lato del servizio, e Federica su questo fronte potrebbe aver ragione. All'Italia per conto suo dice: guardate, gli aeroporti italiani stanno facendo occupare gli slot dalle compagnie low cost, non è solamente un problema nostro. In questo momento chiaramente le altre compagnie stanno ripartendo, abbiamo visto tante altre compagnie low cost che il 15 giugno sono ripartite, altre aumenteranno il loro servizio a partire dal 1 luglio, quindi è normale che le low cost, che già erano estremamente forti in Italia, erano comunque degli attori estremamente importanti, ricordiamoci che le 6 nuove compagnie che si sono riunite in questa nuova associazione che si chiama AICALP rappresentano oltre 70 milioni di passeggeri italiani per l'Italia, quindi in Italia. Quindi indubbiamente le low cost sono protagoniste e stanno crescendo. È chiaro che bisogna sempre fare attenzione, quello che dico sempre è: dobbiamo avere la più alta competizione possibile, in questo modo abbiamo più servizi, abbiamo più voli, più possibilità di scegliere, e più possibilità di scegliere significa anche prezzi più bassi. Sì. All'Italia, ci scrive un ascoltatore, ci costa quasi come un punto di IVA. Sì, almeno nell'ultima versione, probabilmente svariati punti di IVA, Giuricin, dall'inizio a oggi, direi. Sì, al contribuente costa tantissimo. Infatti io non faccio mai polemica sulla compagnia, io quello che dico è la scelta della politica che vuole andare nella stessa direzione. È chiaro che sia i dipendenti che la compagnia aerea cercano di sopravvivere, sarebbe bene che sopravvivessero a mio parere da soli, senza soldi pubblici, e ben venga che ci sia una compagnia in più che sta sulle proprie gambe, perché così c'è più concorrenza. Grazie Andrea Giuricin, grazie anche a Roberto Arditti, direttore editoriale formiche.net, Andrea Giuricin, CEO di Tra Consulting, docente di economia e trasporti all'Università Bicocca di Milano. Ci fermiamo, c'è GR24, ma prima di chiudere un grande in bocca al lupo ad Alex Zanardi. Ne abbiamo parlato poco, abbiamo avuto occasione poco di parlarne questa mattina, sentirete i servizi all'interno di GR24, tutte le notizie che lo riguardano, il bollettino medico, l'inchiesta, e però da noi solamente un in bocca al lupo. Forza Alex, GR, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.